Freddo, ma forte. Ma non è il caso, perché la mattina si aprono le finestre, sai, quando fai le pulizie, eccetera. Sempre un po' di aria devi cambiare nell'ambiente, no? Per cui non è il caso di accendere la stufa da prestissimo, salvo delle giornate proprio eccezionali che fa molto ma molto freddo, allora accendi anche alle 8 del mattino, per dire. Ma di solito io la faccio partire per intorno all'una, a mezzogiorno e mezza l'una, e la spengo la notte sempre intorno alle 11 più o meno. E scalda, che è una meraviglia, ma veramente forte, che puoi stare qua in canottiera, puoi stare addirittura. Perciò va bene, ripeto, oggi l'ho dovuta anche abbassare perché era anche troppo forte, ti puoi immaginare. E oggi la giornata non è che sia poi tanto calda, un po' di freddo c'è, pertanto no, è per quello che ti stavo dicendo, che sto usando questo tipo di pellet che funziona a meraviglia, perché ti tiene sempre la fiamma molto alta, ti tiene, e dunque essendo molto alta scalda sempre di più, è ovvio, no? E allora l'ho regolata a 1 al minimo praticamente. Se ho di solito io la faccio partire a 3, poi tante volte la metto a 2, oggi stasera addirittura l'ho dovuto mettere a 1 perché era troppo forte, c'era troppo caldo qua. Tutto lì, Gianfra. Sì. Sì, nel frattempo io ho, tra virgolette, risolto il problema di questi rumori che non sono altro che delle banali richieste di contatto che non vanno a buon fine. E vabbè. E tutto. Volevo dire, la vecchiaia è veramente micidiale e penso che andando avanti non migliorerà questa cosa che ti dimentichi le cose. Troppo traffico dentro il cervello, ci sono troppe cose che camminano, quindi ci vorrebbero dei vigili a dirigere il traffico delle idee. Le farfalline nella mente alle volte si inceppano e allora succedono questi problemi, però va bene così. Ma se te la metti tu, cosa devo dire io allora, che te ne dico almeno 15 anni minimo, o anche 17 o 18 rispetto a te, figurati, io ne ho già compiuto 78 e vado per il 79 all'aprile, al prossimo aprile, sì che te puoi immaginare, Gianfra. Ma l'unica cosa che mi dà fastidio, sinceramente parlando, è il fatto che non posso uscire tutte le mattine come facevo prima di questa pandemia. Perché io ero abituato a uscire tutte le mattine immancabilmente, andavo lì, trovavo gli amici, magari andavo al bar, facevo colazione, un cappuccino, uno o due cornetti, oppure che so io, la brioche, eccetera. Ma adesso sono già da gennaio scorso che non ho fatto più la vita abitudinaria di prima, e questo mi infastidisce molto. Esco solo esclusivamente quando devo andare a fare delle visite, che tra l'altro l'ho fatta un po' di tempo fa, oppure quando vado a prendere la pensione. Per il resto non esco mai, sono sempre a casa, sempre, proprio per paura del contagio, non si può mai dire, sai, anche perché intanto vai, esci, non ti puoi avvicinare ad un amico, non puoi andare in un bar a prendere un caffè, non puoi fare niente, trovi una persona, non gli puoi stringere la mano, sicché per avere tutte queste conseguenze nella vita, allora tanto vale, tutte queste restrizioni ce le teniamo all'interno della nostra casa e ciccia, non se ne parla più. E mi dispiace questo, mi dispiace perché io ero talmente abituato che non ci riuscivo a rinunciarci. Non ci riusciamo tutte le giorni, anche freddo, caldo, pioggia, vento, uscivo sempre, tutte le mattine. Adesso purtroppo non lo posso fare. Ma così è per tutti. Anche a me piaceva andare, dico ogni giorno, ma molto spesso a fare colazione, eccetera. Andavo specialmente due bar anche prima di andare al lavoro, un giorno nell'uno, un giorno nell'altro, però è così, questa cosa è micidiale e quindi dobbiamo stare attenti, tutto lì. Quindi tra l'altro a me mi meravigliano molto, ossia io andavo anche molto molto spesso, perché non fai, oppure c'è lui, stavo dicendo che facevo queste cose, però a me mi meravigliano molto quello che dicono, che sento in televisione, che tutti si lamentano, ovviamente tutti hanno ragione, ma secondo te, prendiamo adesso il caso, che ne so, di un ristorante. Se il mio ristorante abituale apre, io non ci vado lo stesso perché non mi fido, capito? Perché penso anche che correre il rischio di andare in un ristorante per farti un pranzo, non ne vale la pena, cucini a casa qualcosa di buono e sei a posto, capito? Quindi anche se loro fossero affetti, probabilmente ci avrebbero talmente pochi clienti che quei soldi che guadagnano non bastano neanche per la corrente elettrica. O ci butterebbero la maggior parte della roba che cucina. Quindi anche lì molta gente ovviamente parla, chiacchiera, eccetera, perché insomma è duro, però se ci pensa un attimo, se fa un ragionamento, capisce che non c'è modo di attirare la gente se non con la tranquillità e la serenità, che attualmente non c'è e non ci può essere, perché comunque senti di morti, senti di gente che sta molto male, anche di gente che conosci, tra l'altro, quindi è ovvio che se ne passa la voglia, no? Cosa ci puoi fare in ristorante o al bar a rischiare di portarlo dentro casa? Ma non ci penso nemmeno. Capito Giulio, purtroppo loro si lamentano perché sono sempre lamentati, a prescindere dal Covid. Sì, beh certo, ma anch'io la penso in quel modo, perché non è possibile, per me è da incoscienti, visto e considerato che purtroppo c'è questo problema oggigiorno, allora bisogna starsene tranquilli, non si può, io capisco che chi lavora ha bisogno di guadagnare, eccetera, certo, però dobbiamo anche essere sinceri e pensare che senza la salute non te ne fai niente dei guadagni, non te ne fai niente, assolutamente, è inutile avere guadagni se poi non hai la salute. Pertanto la prima cosa da tenere è da salvaguardare è la salute, dopodiché verranno i guadagni. È arrivato il momento magari di sacrificarci un po' tutti quanti, bisogna pure capire che la situazione è talmente seria che un po' tutti dobbiamo fare delle sessioni obbligatorie, perché è così che bisogna cercare di debellare questo sistema di virus, eccetera, perché non si può, invece tu vedi delle manifestazioni che fanno assurde, come hanno fatto ultimamente anche a Napoli, dopo la morte di quel poveretto che io ho tanto di rispetto per il defunto, però uno non può andare pure a fare festa perché magari quello ha giocato per 7 anni lì in quella città. È assurdo, guarda, che si possa essere così incoscienti. Questi per me sono persone irresponsabili, incoscienti, e non si può andare, a parte il fatto che è morto quello e tu fai festa ballando, cantando, ma cosa state facendo? Se vuoi sapere. E poi la gente non fa altro che venerarlo, eccetera. La dico io, rispetto il defunto perché bisogna rispettarlo, ci mancherebbe altro, ma non per criticarlo, no. Io critico casomai l'atteggiamento della gente. Caspita, addirittura mi hanno scalzato, San Paolo mi hanno scalzato dallo stadio di Napoli per dare il nome e il titolo Maradona. Ma vogliamo scherzare? Ma siamo impazziti veramente? O cosa abbiamo nella mente, nel cervello? Che cosa abbiamo? Io non riesco a capire certi atteggiamenti di certe persone, soprattutto il presidente della campagna lì, se avesse pensato invece a risolvere il problema del Covid-19, anche che stare lì a rompere le scatole continuamente e a proclamare un uomo che ha giocato al calcio, che si è distrutto tra l'altro da solo, io non è che lo sto criticando, io sto criticando il suo atteggiamento di vita che ha avuto, perché non puoi venerare un uomo che ha giocato al calcio, non può essere più importante di San Paolo. Io la penso in questo modo, si è distrutto da solo, si è sfatto completamente con le sue proprie mani, con i suoi comportamenti o abitudinari o gli altri. Sì, scusa Giulio, ho lasciato un pochino di bianco per capire se c'era qualcuno che voleva entrare, ma pare di no. Sì, sono d'accordo con te, ma probabilmente tra poco chiederanno al Papa di farlo santo. Buonasera, ragazzi, me lo date un controllo per favore del radio? La radio è ultima, 9:18 di segnale. 9:18 di segnale? Sì. 9:38 di segnale, la radio è buona. Ehi. Sono alla cosa di, come si dice, di... Non riesco manco a dirlo. Sto cercando di sistemare un vecchio IC, ma il radio va bene, la ricezione va bene, ma non riesco a farli dare i picchi positivi. Vabbè. Era giusto per ammazzare il tempo. Comunque la radio va bene, mi avete detto, confermate che la radio è sempre in ottime condizioni, così è. La parte mia è eccezionale, va benissimo, molto molto gradevole anche come tonalità, nel senso che non è bombardata, va benissimo. Avanti Giacca, dimmi tu come lo senti. Se confermo, la radio è buona. Mi sembra di capire che c'è un picco leggero in fase negativa, contrariamente al solito, ma quello può essere dovuto a mille notizie, però la radio va bene. Poi magari quando riprendi Claudio ci fa un bel fischio. E comunque grazie anche per averci consolati, perché poco fa stavamo parlando di che ogni tanto ci dimentichiamo quello che dobbiamo dire, anche tu te lo sei dimenticato, quindi possiamo benissimo fare un bel club di come si dice, non voglio dire rimbambiti, ma siamo lì vicino, là. Gianfra, lascia perdere che in questo periodo non è che sia tanto tanto bello, ok, sì, va in negativo, dai, niente di particolare, però va in negativo, è un vecchio C 720, però il microfono è abbinamento che faccio io, MC60 con l'adattatore, che c'ho l'adattatore appunto già fatto. La radio penso che vada bene, però c'ha picchi negativi, quindi siccome io non conosco questa radio, non so, dovrei andare a mettere le mani e lascio stare così. Non è un problema, questi picchi che abbiamo, per forza dobbiamo averli positivi, anche se vanno bene così non c'è problema, dai. Avanti Giulio, si notano molto da te i picchi di modulazione, cambio? No, non molto, assolutamente, o Claudio, va benissimo così. Non dico che è stabile quando moduli, però un minimo di spostamento c'è, ma non più di tanto però, perché ripeto, la radio è ultima, veramente gradevole, ma non bombardata, è quello che intendevo. Comunque ti comunico, non so se stavi guardando la partita, adesso sta vincendo la Juve, stanno giocando il recupero e mancano pochi secondi al termine della partita. Sta vincendo 2-1 la Juve o qua. Aspetta, questo è un miracolo, per quello che sta funzionando questa radio. Cioè stava perdendo 1-0 e sta vincendo 2-1. E allora è veramente un miracolo. Allora possiamo dire che questa Juventus si può parlare di rimonta, così si dice Giulio. Per carità, può anche vincere. Posso essere anche contento perché prende punti, fa punti. Ma il gioco, la Juventus fa veramente schifo quest'anno, quindi io rimango sono sempre nelle mie, da sportivo e da tutto. Ok, Gianfra, a te il cambio, allora, dai, riattacco l'altra, non c'è problema, l'altra è un po' più bombardata la mia, però questa dovrebbe andare bene, non è così forte, ma comunque già va bene, dai, ok, i picchi negativi sono molti, o comunque te ne accorgi tu che hai sempre l'occhio lì visivo, oppure va bene. Dovresti fare una cosa, mettere la portante un attimino e poi fai dei fischi, magari o il frutto ola staccati, in modo che ci siano delle pause e si noti sul segnale, dai. Ok, allora. Prova radio. Sì, adesso sei visto benissimo. Il picco è negativo, che per quello che ne so non ha significato. Ti faccio il mio esempio, io sto andando in questo momento con 2 watt, se faccio il tuo stesso fischio me ne scendo a 1,5 watt. Non è questione d'alimentazione, perché l'alimentazione era ovviamente è da 50 ampere, quindi più che sufficiente per l'apparato. Le stazionarie sono assolutamente irrilevanti, quindi dipende anche dal tipo di modulatore, come agisce lì sulla parte trasmittente, dai componenti usati, ma non è un difetto, perché ripeto, sia la mia ma sia anche la tua non ha difetti la radio, quindi questo inserimento al picco positivo mi sembra un pochino non rilevante, anche perché è pochissima roba, tanto è vero che ti ho dovuto far parlare in maniera separata per notarlo. Tu pensa, io c'ho circa 0,5 watt costante, però è il modulatore che me ne mangia 0,5 watt, quindi niente di particolare, anche se sono solo 2, però non fa effetto, capito? Ok, va benissimo alla grande, ok, va bene che va bene. Comunque qua il problema è, Gianfra, che se io metto in posizione ALC la lancetta va in positivo, ok? Se invece metto in posizione power, la lancetta rimane stabile, quindi non è un grande problema, dai. L'importante è che la radio vada bene e che sia tutto a posto, ok? Sì, quello sì, non c'è ombra di dubbio. Avanti Giulio, adesso l'hai notato di più anche tu sicuramente con le pause. Sì, ma non più di tanto, qui uscì dal lago, la verità, non più di tanto. Perché ripeto, la radio non è la solita radio bombardata, per cui oscillazione ce n'è poco e niente. Poco. La partita è finita, ha vinto la Juve 2-1, ha rimontato con McKenny e poi con Bonucci. È stata tutto sommato una partita che non so quanti meriti possa avere la Juve in questa partita qua, perché nel primo tempo non ha fatto un tiro in porta, però adesso nel secondo tempo ha recuperato con McKenny, che l'aveva sostituita, no? Perché nel primo tempo non c'era, e poi Bonucci all'89esimo è riuscito a ribaltare il risultato. Vabbè, detto questo, buon per la Juve, sono contento perché ha vinto, però mi fa pena perché non mi piace più per la squadra quest'anno. Vabbè, avanti, riprendi ancora o qua. Ma infatti sono dello stesso parere, no? Ti ho detto che non vince ma non convince, come si dice, ok? Va bene, dai, che metto l'altra mia radio allora, che voglio vedere le differenze, ok? Riprendi Gianfra? Sì. C'è qualcuno che voleva entrare? Avanti. No, negativo. Cosa volevo dire? Sì, anche a distanza da me c'è picco negativo. Il mio lo noti il picco negativo, Giulio, dato che sto usando anche una potenza ridicola? No, io lo vedo positivo, perché da 8 e mezzo arrivi a 9 pieno, leggermente anche di più, per cui è positivo il tuo segnale o Giofra. Andiamo bene, quindi il coso lo segnala negativo il wattmetro, mentre la realtà è che è positivo. Il tuo filato è talmente basso che lo strumento dell'apparecchio non mi dà neanche la potenza, giusto il wattmetro professionale se ne accorge. Vabbè. Claudio, poi guarda un po' se riesci a capire se il mio è positivo o negativo, perché a volte può essere anche la radio che sta ricevendo. Adesso ti devi abbassare il volume, però, perché questa è quella bombardata la radio, capito? Aspetta che abbasso qua appena, insomma, questa è una cosa di quelle allucinanti, veramente. È troppo forte, troppo. Questa già ce li ha picchi positivi. Questo è il 430 che è fa paura. Ogni volta che metto le cuffie è un casino. Sì, leggermente, ma molto leggero già fa, i picchi sono molto leggeri. Positivo o negativo? Prova a fischia. Leggeri, ma sono positivi, non come questi del 430, va abbastanza in alto. Giulio, c'è la differenza da questa a quell'altra? Solo di radio c'è la differenza, basta? C'è di radio e anche di picchi positivi, non lo credo. Questo di segnale leggermente di meno, anziché 18, diciamo può essere 17, però arrivi al 20 modulati tranquillamente, per cui non, i picchi sono positivissimi, mentre invece quello là prima era 18 e i picchi non arrivavano a 20 pieno, si fermavano un massimo 19, dai. Siamo lì o qua. Comunque questa è la radio, questa è di quella proprio forte, alla grande. No, ma anche l'altra andava molto, ma molto bene, molto, intanto per la chiarezza e poi anche per la qualità della radio era eccellente, anche l'altra, non c'è problema, vai, riprendi. Ok, perfetto, vai, va bene, no, l'importante è che a me non mi interessa che sia al top della situazione, è una radio vecchia, una radio che ho recuperato, ci sto lavorando e sta funzionando, non funzionava neanche, non accendeva neanche, quindi vedi bene che è un vecchio ICOM 720. Va bene, dai, ottimo per la truppa. Allora rimetto il coperchio già fra, così ti faccio contento e faccio andare anche l'altro, dai. Attacco quella un po' più silenziosa rispetto a questa. Se no ti faccio sordo. Riprendi a te il cambio e arrivo subito, dai. No, aspetta, dimmi una cosa, ma poi quel microfono l'hai comprato? ZG Trick & Track, io ne ho 3, 4 più 1 testato Kenwood 5, e quello che ho preso è praticamente un più 4, non è un più 5, capito già? Quindi non è quello che c'ha la... cioè sì, il più 4 dovrebbe avere lo strumentino, quello è. Non ho capito, scusa che mi sono distratto. È quello che c'ha lo strumentino, la lancetta. Il più 5, ma anche il più 4 penso che ce l'abbia. No, il più 4 no qua, il più 5 ce l'ha lo strumentino. Dai, ragazzi, io vi devo salutare, mi hanno appena chiamato e evidentemente stasera sento profumo di pizza qua, per cui devo scendere giù in tavernetta per la cena, dai. Grazie per la chiacchierata, è stato un piacere, ciao Gianfranco, ciao Claudio, ascolto il vostro finalino e dopodiché purtroppo con dispiacere vi devo lasciare, dai, perché mi hanno già chiamato. Avanti Gianfranco. Ok Giulio, ciao, buona cena. Alle prossime, buona serata, riprendi Claudio. grazie dei controlli, di tutto, ci ascoltiamo le prossime, dai. Già, io me devo ancora preparare, sono le 8:10, mi sono leticato del cane, perché sennò è un casino, quindi ti devo mollare momentaneamente, se ci sei ti chiamo dopo, ok? Vado a far fare la pipì al cane e poi risalgo. Ci vado anch'io pensandoci bene, ma non fuori, ecco, ma il cane, perché fa troppo freddo. Va bene Claudio, dai, ci sentiamo se ci sono, ma sono già le 8, quindi è un pochino tardi. Vediamo un po', provo a chiamare. A dopo, ciao ciao. Ciao, ciao, già a dopo, scusami, mi sono dimenticato. No, vai, vai, saluti musica. Ciao a tutti. Tu entri sempre quando qualcuno deve andare in bagno. Dai, non sono potuto entrare, qua era acceso ma non c'ero. Ciao Claudio, Giulio, eccetera. Una cosa, Gianfra, veloce, mi avevi segnalato una serie TV, però non mi ricordo che titolo mi hai dato. Potevo essere Stalker o roba del genere. Confermo, Stalker è su RaiPlay, quindi non devi fare altro che andare su RaiPlay. Ed è un'esclusiva RaiPlay. Ma Stalk o Stalker? Stalk, che significa Stalker lo stesso, senza l'er. Ok, va bene, adesso segno, vediamo se lo becco, dai. Non ho capito se per il popolo gratuito oppure bisogna fare abbonamenti anche lì. No, assolutamente no, è tutto gratuito. Così come lo è anche Mediaset Play e anche qualche altro, che adesso non ricordo. Dai, buona serata a tutti, ciao Gianfra, ci sentiamo quando capita. Ciao a tutti, ciao. Ok, ciao, a dopo. Bagassa, che santo che t'ha fatto, gà. Mi stava facendo un difetto e stavo provando adesso, perché ero uno spezzone, la massa che non è varia. Ehi, guarda, questi suoi fan stanno creando un sacco di problemi, non so. Scappa, oh, ce l'avevo un sacco di anni, Sì, anch'io, ne avevo un cassetto pieno di spezzoni di quelli vecchi, alla fine li ho presi e buttati tutti via, non mi interessa più. Scappa, ma poi te lo posso vedere se è Edo. Se sono quelli piccolini, già fatti, sono quelli. Sì, so. Allora, no, per dire, è buono perché non serve niente. Se non mi funzionava più l'amplificatore, non mi funzionava. Che sta dentro da Marasio chi è? Ed era questo qua. Figurati, io stavo parlando, mi si è abbassata di colpo la potenza, tutto, purtroppo così. Ma vai in ora a Mara, vai perché c'è un chitto di sono, beh. E che sono, c'è? Non lo senti, che sono? In zona lo fa Corre, controlla. No, è proprio roba di zona. Pisona, roba di pisona. È roba che c'è qua, Cavolo, adesso provo a bugarmi, che indo? Però provo a staccare l'altro baracchino, perché nell'altro baracchino mi stava girando le balle. No, vabbè, se fa qualcosa, capito? Provo. 2 secondi. E io non sono qua. Sto girandomi le balle. E con questo lo fa. Adesso non lo fa più. Com'è? Oh, cla! Io ando, sono qua. E lo fa, guarda bene se va bene. Intanto mi sta lontanando a controllare mia moglie. Dimmi, fammi vedere il segnale. Hola. Sì, già va bene. Se non hai altri rumori, già va bene. A volte attacca, a volte no. Tanto guarda che non mi hai sbagliato il collegamento, sempre come ti ho detto io quel collegamento adesso, te lo ricordi, te l'hai segnato? No, non ce n'è attaccato Smith. Non ce n'è funziona bene. Con questo qua funziona bene. Con questa apparecchio l'altro mi sta dando problemi. Non so cosa dirti, io non è che mi intendo molto di queste cose, boh. Io ho detto dentro, ma per fare due regolazioni a una radio vecchia, io oggi, per carità, alla fine l'ho mollata che me lo vedendo buco e gatto. Io rimane così, stavo cercando di guardare un po' più di spinta, una radio vintage, ma no, più di quello non fa. Non te lo dico, dai. Certo, c'è una radio fenomenale in trasmissione, va benissimo, però volevo darle 400 in poco, non si può fare, l'ho lasciata come l'ho chiusa, l'ho messa a posto, ho capito, questo è il mio mitico 430, il che è una bomba. Ma, adesso vedo un po'. Faccio questa adesso, poi domani vedo un po' di cambiare qualche pezzone. Pappa di gatto? Ma di gatto, sicuramente, ho subito girando degli yo-yo. Ma è strano però. 9:20 sono lì. Ah sì, 9:20, sì. Scappa, va. Ci sei, io chiudo, dai.